Ancora un applauso di Showtime, Dorian. Cambio in console. Tutti lo conoscono come il più grande combattente, condottiero degli eserciti mai esistiti su questo pianeta. Lo chiamavano il generale dell'amore e la leggenda narra che quando il suo esercito lo vedeva alzava la mano destra del cuore verso il cielo. Sulla mano destra del cuore per il grande generale. Per esplodere la bomba. Asciugando con sti saluti. Ora veramente i saluti li facciamo solamente con la cartolina. la cartolina e i francobolli, quelli che dico io, i Simpson o gli Hoffman. Solamente così facciamo i saluti. Ci vuole uno psicologo, uno psicoterapeuta, Adolfo De Gris. Adolfo De Gris, stai impazzendo! Dove sono i ragazzi di Varante? Separately, strana questa musica. Ti ritrovi in qualsiasi posto, in qualsiasi momento, tutto può accadere. Il disco che state ascoltando è una produzione di Ado the Dreamer. Sulle mani Dorian Gray. Tre metri sopra il cielo. Anzi, quattro, perché a tre metri c'è troppa gente. Move your body. We'll be right back. Zazza. Move your body. I don't know. Relax your body. Love of mine. E come dirvelo in tutte le lingue del mondo, musica! Happy birthday. E stanotte sono veramente tanti quelli che compiono gli anni. Ma volevo dire, non avevate un altro giorno per nascere, eh? Proprio questa sera dovevate scassare un cazzo con sti auguri, eh! Auguri! Everybody,

MC Sonic in console, thank you. Arrivando l'ultimo disco di Ado the Dreamer. Destruction of all weapons known to man. Creating any kind of weapon is considered an act of war and will be severely punished by Earth law. In secret, a group of brilliant criminal minds have designed a microscopic bionic insect. Upon puncture, a chemical is released that infiltrates the human brain, leaving no trace. All the scientists involved in this project, with the codename Zanza, have died mysteriously. It's clear that in a few years' time, the entire Earth population will be infected by this unknown bug. And whoever controls Zanza will control your mind. Finalmente il vostro sogno si è trasformato in realtà. Possiamo volare sulle ali, Dorian Gray! We'll be right back. Allora, sta arrivando l'ultimo disco di Out of the Dream, Dorian Gray. Facciamogli un grande applauso. Anzi, facciamo di più. Fatemi sentire tutte le vostre mani al tempo. Al tempo della musica. Attenzione, è stato smarrito l'ultimo capello di Out of the Dream. Chiunque lo ritrovasse. C'è una ricompensa di 1300 euro. Dato The Dream, Dorian Gray. Hanno suonato Luca Antonini, gli Showtech, Ado The Dream.